Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. L'idea di essere andato a Vancam con l'unico intento di vedere ancora una volta il casino di caccia mi sembrò in quel momento un'idea scellerata. D'altronde, mi dissi subito, è un dovere che ho verso Wertheimer. Esattamente questa frase dissi in cuor mio, è un dovere che ho verso Wertheimer, dissi forte in cuor mio. Menzogna seguiva a menzogna. La curiosità, che è sempre stata la mia più spiccata caratteristica, aveva di nuovo preso possesso di me. È probabile che gli eredi abbiano già vuotato del tutto il casino di caccia, pensai, e lo abbiano già completamente trasformato. Perché spesso gli eredi procedono in queste cose con una rapidità e una mancanza di scrupoli di cui non riusciamo nemmeno a farci un'idea. Poche ore dopo la morte del testatore, come viene chiamato, gli eredi svuotano la casa, portano via tutto e non permettono ad anima viva di avvicinarsi. Non c'è nessuno che abbia messo i suoi parenti in una luce più orribile di Wertheimer, il quale nel descriverli li ha veramente denigrati. Padre, madre, sorella, tutti li ha odiati e a tutti ha rimproverato la propria infelicità. Ininterrottamente ha loro rinfacciato di averlo costretto a esistere, di averlo gettato dall'alto nell'atroce ingranaggio dell'esistenza per farlo uscire dal basso totalmente distrutto. Resistere non serve a niente, diceva di continuo. Il bambino era stato gettato dalla madre in questo ingranaggio dell'esistenza. Il padre teneva in funzione costantemente questo ingranaggio dell'esistenza che implacabilmente faceva il figlio a pezzi. I genitori sanno perfettamente che l'infelicità ad essi connaturata la perpetuano nei figli, ma nella loro crudeltà vanno avanti a fare i figli e a gettarli nell'ingranaggio dell'esistenza. Così lui, pensai mentre davo uno sguardo alla sala da pranzo. Ho visto per la prima volta Wertheimer nella Nussdorfer Strasse, davanti al mercato coperto. Un mercante come suo padre, questo sarebbe dovuto diventare Wertheimer, che poi in realtà non è nemmeno diventato quello che lui, Wertheimer, voleva diventare. Non è diventato un musicista e invece, sono parole sue, è stato distrutto dalle cosiddette scienze dello spirito. Fuggiamo senza posa da una cosa all'altra, così lui, e ci distruggiamo da soli, non facciamo altro che scappare, così lui, fino a quando cessiamo di vivere. Nel suo amore per i cimiteri, esattamente come me, pensai, passava giorni e giorni a visitare i cimiteri a Döbling e nel bosco di Neustift, pensai. L'anelito che ebbe per tutta la vita di stare molto spesso da solo, pensai, è un anelito che ho anch'io. Wertheimer non era un viaggiatore come me. Non amava appassionatamente cambiare luogo. Una volta è stato in Egitto coi genitori, ma poi ha chiuso. Io invece ho sfruttato qualsiasi occasione per andarmene via, non importa dove. La prima volta sono scappato a Venezia, portando con me la valigetta da dottore di mio nonno e 150 scellini per 10 giorni. Giorni, tra l'altro, fittissimi di impegni tra visite quotidiane all'Accademia e spettacoli alla Fenice. Il Tancredi per la prima volta alla Fenice, pensai. Per la prima volta il desiderio di provarci con la musica. Wertheimer è stato sempre e soltanto il soccombente. Non c'è nessuno al mondo che abbia tanto camminato per le strade di Vienna. Wertheimer le ha percorse tutte, da ogni punto e in ogni direzione, e poi tornava indietro fino a ridursi veramente allo stremo. Manovre diversive, pensai. Il suo consumo di scarpe era immenso. Feticista delle scarpe, anche questo Glenn aveva detto a Wertheimer. Credo che nella casa del Kohlmarkt di paia di scarpe ne avesse a centinaia. Anche a causa di questo aveva spinto sua sorella sull'orlo della follia. Venerava sua sorella, o meglio, l'amava, pensai, e con l'andar del tempo la fece diventare pazza. All'ultimissimo momento lei gli sfuggì recandosi a Zitzers, nei pressi di Coir. Non si fece più viva, lo lasciò dov'era. I vestiti di lei, Wertheimer, non li toccò, li lasciò dove erano nei suoi cassetti. Non toccò più nulla delle sue cose. In realtà mia sorella l'ho sfruttata soltanto per farle voltare le pagine, disse una volta, pensai. Nessuno era capace di voltare le pagine come lei, sono io che gliel'ho insegnato con la mia consueta spietatezza, disse una volta, anche se all'inizio non sapeva leggere nemmeno una nota. La mia geniale voltapagine, ha detto una volta, pensai. Aveva degradato sua sorella a una che volta le pagine, e questo col passare del tempo lei non lo aveva tollerato. La sua frase «non troverà mai un uomo» si è rivelata per lui in seguito un tragico errore, pensai. Wertheimer aveva costruito per sua sorella un carcere sicurissimo, un carcere a prova di evasione, e lei è fuggita dall'oggi al domani, come si suol dire. La fuga della sorella lo aveva tremendamente avvilito. Seduto sul suo sgabello aveva avuto un solo pensiero, quello di togliersi la vita, così lui, pensai. Per giorni e giorni aveva almanaccato sulla maniera di uccidersi, ma poi non si era ucciso. Già la morte di Glenn aveva fatto sì che il pensare al suicidio diventasse per lui uno stato permanente, e la fuga della sorella rese questo stato più permanente ancora. Con la morte di Glenn, diceva, il proprio fallimento gli si era presentato alla coscienza con tutta la brutalità di un dato di fatto. Ma quanto alla sorella, soltanto malvagità e abiezione potevano averla indotta a lasciar lui solo in uno stato così penoso per correre dietro a uno svizzero abietto fino al midollo, diceva, un tipo che porta insulsi impermeabili coi risvolti del collo a punta e scarpe di balli con una fibbia di ottone, pensai. Mai e poi mai avrei dovuto lasciarla andare da quell'orrido internista Horch, il medico di lei, disse, perché è lì che ha conosciuto lo svizzero. I medici vengono a patti coi proprietari di complessi chimici, disse lui, pensai. Non avrei dovuto lasciarla andare, ha detto lui, pensai, riferendosi alla sua 46enne sorella. La 46enne sorella doveva implorarlo per uscire di casa, pensai, e doveva rendergli conto di ognuna di queste sue sortite. Inizialmente lui, Wertheimer, aveva creduto che lo svizzero, che egli aveva immediatamente bollato come un volgare calcolatore senza scrupoli, avesse sposato sua sorella a causa della sua agiatezza, ma poi era risultato che in verità lo svizzero era molto più ricco di loro due messi insieme. Ricco sfondato, dunque, ricco come uno svizzero, il che significa molto, ma molto più ricco di un ricco austriaco, così lui. Figurarsi che il padre di questo individuo, dello svizzero, così Wertheimer, era stato uno dei direttori della Zürcher Bank Loi, così Wertheimer, e che il figlio possedeva uno dei più grandi complessi chimici esistenti al mondo. La prima moglie dello svizzero era defunta in circostanze non del tutto chiare, non c'era nessuno che al riguardo sapesse dire la verità. mia sorella come seconda moglie di un parvenu, così Wertheimer pensai. Una volta era rimasto a sedere per 8 ore nella gelida cattedrale di Santo Stefano, guardando l'altare con gli occhi sbarrati, disse. Il sagrestano gli aveva indicato la porta della cattedrale di Santo Stefano con le parole «Signore, si chiude!». Al momento di uscire lui aveva dato al sagrestano una banconota da 100 scellini. Un colpo di testa, così Wertheimer. Il mio più ardente desiderio, così lui, era di star seduto nella cattedrale di Santo Stefano fino al momento in cui fossi caduto per terra, morto, stecchito. Ma la cosa non mi riuscì, benché mi fossi molto concentrato su questo desiderio. Non avevo la possibilità di concentrarmi su questo mio desiderio fino al limite estremo, disse, e i nostri desideri si realizzano solo se su di essi ci concentriamo fino al limite estremo. Fin dall'infanzia aveva coltivato il desiderio di morire, di togliersi la vita, come si suol dire, però non si era mai concentrato su questo desiderio fino al limite estremo. Non era riuscito a rassegnarsi al fatto di essere stato partorito in un mondo che in sostanza e fin dall'inizio lo aveva sempre disgustato in tutto e per tutto. Poi era cresciuto e aveva creduto di poter uccidere in sé questo desiderio. Pensava che esso ad un tratto sarebbe svanito. Invece questo desiderio era diventato di anno in anno più intenso, anche se così lui l'intensità e la concentrazione su questo desiderio non erano giunte al limite estremo. La mia inesauribile curiosità ha impedito il mio suicidio, così lui pensai. Noi non perdoniamo al padre di averci fatti, alla madre di averci gettati nel mondo e alla sorella di essere la perpetua testimone della nostra infelicità. Esistere in sostanza non significa nient'altro che questo, essere disperati, così lui. Mi alzo, penso con ribrezzo a me stesso e tutto ciò che mi aspetta mi fa orrore. Mi sdraio sul letto, non desidero nient'altro che morire, non svegliarmi più. Poi invece mi risveglio e l'orrendo processo si ripete, seguita a ripetersi per 50 anni, così lui. Pensare che per 50 anni non abbiamo nessun altro desiderio se non quello di essere morti, eppure seguitiamo a vivere e non possiamo farci niente perché siamo incoerenti da cima a fondo, così lui, perché siamo la meschinità in sé, l'abiezione in sé. Non abbiamo talento musicale, ha esclamato. Non abbiamo talento esistenziale, tale la nostra arroganza che siamo convinti che ciò che facciamo sia studiare musica, mentre non siamo neanche capaci di vivere, non siamo in grado di esistere, già che in verità non esistiamo, ma piuttosto veniamo esistiti. Così disse una volta sulla Weringer Strasse, dopo una camminata di 4 ore e mezzo lungo la Brigittenau che ci aveva ridotti allo stremo. In passato abbiamo trascorso delle mezze nottate al Café Corale, diceva. Adesso non andiamo più neanche al Colosseum. Guarda come tutto è diventato profondamente diverso e per noi assolutamente deleterio. Noi crediamo di avere un amico, ma col tempo ci rendiamo conto che di amici non ne abbiamo, perché non abbiamo assolutamente nessuno. La verità è questa, così Wertheimer. Pur tenendosi stretto al suo Bösendorfer, tutto col passare del tempo si è rivelato un errore, una cosa tremenda. Glenn aveva avuto la fortuna di crollare seduto al suo Stanway nel bel mezzo delle variazioni Goldberg. Lui erano anni che faceva di tutto per crollare, ma senza risultato. Più volte era stato con la sorella nella cosiddetta Praterhauptallee, il viale principale del Prater, nella speranza che la salute di lei migliorasse, così lui, per farle respirare un po' d'aria fresca. Ma sua sorella queste gite non le apprezzava e domandava perché solo la Praterhauptallee e non la Burgenland, perché solo la Praterhauptallee e non il castello di Kreuzenstein o Reetz. Sua sorella era proprio incontentabile. Lui si era sempre prodigato per lei. Ogni volta che desiderava un vestito le dava il permesso di comprarselo, così lui. Io l'ho vezzeggiata, così lui, e quando il mio vezzeggiamento è giunto al culmine, così lui, lei è scappata, se n'è andata a Zitzers, nei pressi di Coira, in quella zona tremenda. Tutti, quando non sanno più dove andare, corrono in Svizzera, così lui, pensai. Ma la Svizzera poi si trasforma per tutti in un carcere mortale. A poco in Svizzera la gente muore soffocata per via della Svizzera. E così anche mia sorella morirà soffocata per via della Svizzera. Lui questo lo presagiva. Zitzers le toglierà la vita, lo svizzero le toglierà la vita, la Svizzera le toglierà la vita, così lui pensai. Proprio a Zizzer doveva andare in quella perversa creazione verbale, così lui pensai. È stata probabilmente una pensata dei nostri genitori, diceva. Io e mia sorella legati per la vita, un calcolo dei genitori. Ma questa pensata, questo calcolo o conto dei genitori non è tornato. Facciamo un figlio maschio, hanno forse pensato i nostri genitori. Poi gli diamo una sorellina e quei due si aiuteranno a esistere fino alla fine della loro vita, sostenendosi a vicenda, annientandosi a vicenda. È probabile che sia stata questa l'idea dei genitori, la diabolica idea dei nostri genitori. I genitori fanno la loro pensata, ma questa pensata, come ovvio, non può diventare realtà. La sorella non si è attenuta alla pensata dei genitori. Lei è la più forte, così lui. Io sono sempre stato il debole, la componente di totale debolezza, così Wertheimer. In salita gli mancava il fiato, eppure mi precedeva correndo. Non poteva salire le scale, eppure arrivava al terzo piano prima di me. Quelli erano tutti tentativi di suicidio, pensai adesso, osservando la sala della locanda. Inutili tentativi di sottrarsi all'esistenza. Una volta si era recato con la sorella a Passau perché suo padre lo aveva persuaso che Passau era una bella città, una città salubre, una città fuori dell'ordinario. Ma loro, appena giunti a Passau, avevano subito visto che si trattava di una delle città più orribili in assoluto, di una città emula di Salisburgo, che sprizzava da tutti i pori desolazione, bruttezza e ripugnante grossolanità. Eppure con perversa arroganza osava definirsi la città dei tre fiumi. Lui e sua sorella si erano addentrati in questa città dei tre fiumi soltanto per un breve tratto, poi avevano fatto dietro front e siccome per qualche ora non c'era un treno diretto a Vienna, avevano deciso di far ritorno a Vienna con un taxi. Dopo l'esperienza di Passau avevano rinunciato per molti anni a qualsiasi progetto di viaggio, pensai. Se per ipotesi la sorella gli manifestava il desiderio di intraprendere un viaggio, bastava che Wertheimer le dicesse «pensa a Passau» per soffocare sul nascere qualsiasi discussione tra loro su questo argomento. Al posto del pianoforte Bösendorfer venduto all'asta era stato collocato uno scrittoio dell'epoca di Giuseppe II, pensai. Ma in realtà non c'è affatto bisogno che di continuo ci proponiamo di studiare qualcosa, pensai. È più che sufficiente se ci limitiamo a pensare, se non facciamo altro che pensare e con la massima semplicità diamo libero corso ai nostri pensieri. Bisogna lasciarsi andare alla propria visione del mondo, con la massima semplicità abbandonarsi a questa visione del mondo, ma proprio questa è la cosa più difficile, pensai. Allora, quando vendette all'asta il suo pianoforte a coda Bösendorfer, Wertheimer non era nelle condizioni di poter seguire un simile procedimento mentale e non lo fu neanche in seguito, al contrario di me che di far questo sono stato capace, pensai. È stata questa superiorità che mi ha reso possibile sparire un bel giorno dall'Austria portando con me solo una piccola borsa da viaggio e andarmene prima in Portogallo e poi in Spagna e stabilirmi nella Calle del Prado, proprio accanto a Sotheby. A un tratto, e per così dire dall'oggi al domani, mi ero trasformato in un esperto in visioni del mondo. Su questo termine che avevo inventato lì per lì non potei fare a meno di ridere di cuore. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard.